aggiunto 100 che ti dà rotte. Ah, mi pare che avevi detto una cosa del genere, no? E tuo marito umano che non nutta? Ciao Pierino. Andare in giro a passeggiare e cose, a bui, se ci vogliono fermare mi fermo, ma se no ci Giovanni lo giordo mi fa. E dove sono questi qua? Produttore. In piazza? No, no, a Balai mi pare. A Balai? Ecco, io cerco questi sulla rocca di Balai. Cosa? Chiuso, chiuso, si circula nella rocca di Balai. Mi provvide. Giorgio è bravo. Sono lui, c'è? Non lo so. Panino Giorgio, e basta, era meglio variegato, un po' tutti, dai. Lui sono sicuro che ci sia, però gli altri non lo so. Cava, cava. Già va bene, non sono quelli che ti assassinano. A me già mi piace, a mia moglie piace un po' meno. Però siccome ce l'hanno chiesto degli amici, se andavamo, farci un giretto, poi ci sono anche le canzoni sassarese e le tette italiane, li biardini. Non lo so, intanto io ci ho mandato di cultura per un paio di chiese mio qui, ma non mi interessa le cantine dei sassarisi. Mandato di cultura? Ho mandato di cultura di un paio di chiese mio. Anche io quando voglio lo busco di mio, ma non c'è posto per farlo, sennò quando volevo me lo davano, il martedì non c'è problema. Ah, io sono invitato, mi hanno invitato per il mandato di cottura e io eseguisco gli ordini. Cava, cava. E allora buona zeminata. Antua, che tu fai? Allora. Non ho capito nulla, lo dico. C'è un antenino piccolino del portatile. Via. Ok. E voi gli attacco anche la grande, non c'è problema. Vediamo un po' se mi ascolti là, saperà. 433-035. 433-035, sì. Ma devo attaccare lui. Attaccare io, no, tu hai attaccato. Ho detto la mia, la devo attaccare, la grande. Sì. Ma adesso mi senti? Come mi senti? Ecco, là, con la radio, là. Dammi 10 minuti che attacco il riduttore. Vai tranquillo, ora sono qua. stavo chiamando a Luca per se mi sentiva il PD. Chiama, non so. Voi mi sentite? Sì, sì, penso che ti sentano. Beh, ti abbiamo sempre sentito qua, eh. Scarico, quanto lo sto caricando. KK, no, ma qua sei sempre arrivato, anche in MPR qua sei sempre arrivato. Lo so. È un buon apparecchio quello lì. KK. No, ci sono mai stati problemi di questa zona qua, lo sai. Sia il PD e MPR sono sempre arrivato. Perché c'è quel varco lì che ci fa... ci fa vedere le antenne praticamente, eh? Sì, capo, e qua, questa zona è difficile, cioè che qua arrivi forte per forza. Sono arrivato anche a Plattamona con quello lì, lo sai, Plattamona, in continente, se la buttata la diretti fa qua, al continente, non mi sentiva fortissimo, ma mi sentiva. Per forza ti sente. Sì, per forza, con un portatilino non è che sia così facile al tutto. Si butta la direttiva, praticamente, per la frequenza che è, si sente per forza. È stata una soddisfazione lo stesso. Certo, arriva, c'è cioè un'altra banda quella. Non so che un'altra banda. Vediamo. Ti affaggia. Diciamo che ce li abbiamo fermi, li abbiamo più usati, ce li avevo comprati Banuta. Scappa. Vado a trattarle, a che bossa, non sempre. Sì, ma volta che li abbiamo usati per fare quel servizio là. Sì, è vero, te lo ricordi? E almeno è andato bene, là. Scappa, scappa. Abusa. E già, che mi piace anche così, un'esperienza in più. Però sarebbe farlo di lavoro davvero, no? Tu, ti fai 100 euro a serata. E cappa, bello sì, sarebbe bello, beh, non avendo lavoro uno ci pensa. Ma me l'avevano offerto per il venerdì e il sabato, e non ci potevo andare né il venerdì né il sabato, il venerdì perché... lavoravo, il sabato lavoravo lo stesso, quindi cosa... Ma l'aveva buscato Luciano, che era una cooperativa che faceva queste cose. Facevano solo queste cose nelle discoteche, nei locali, eccetera, eccetera. Poi Luciano una volta l'hanno mandato a... vicino a Cabaret Erbarica, c'è quella... diciamo quel bar dove si balla l'estate e cosa, e lì è successo un casino, c'è più tornato e lo volevano picchiare dei sussini. Capa, ho già, però purtroppo se fai quello lì lo fai perché ti deve capitare una cosa del genere, o lo fai o non lo fai, c'è sempre la paura che scappi la rissa. E niente, perché lui si è messo a dividere due persone che stavano bisticciando e cose, e poi meno male che c'era gente che conosceva lui lì e si è salvato per quello, ma dice non lo posso più. Non lo posso più. Se fai quel lavoro tu devi essere consapevole, cioè devi essere consapevole che devi andare incontro a quello, se no non si chiamerebbe... non si chiamerebbe buttafuori, scusa. Logicamente, cioè, logico che se tu vedi una riccia, cioè, ti arrendi subito, no? Ma non esiste. Purtroppo fa parte di quel tipo di mestiere lì. Tu dici, cioè, ci vogliono anche... cioè, le cose non possono andare tutte bene, ci vogliono anche palle per farlo. 100 euro la sera. Scappa, no, ci vuole anche carattere per fare quel lavoro lì. Tu riusciresti a farlo? Io sì. Troverai sempre la gente che ti mette sotto i piedi, non è che tu perché sei prepotente, cose del genere, la vinci sempre, troverai sempre quello più forte di te, quello che ti romperà le scatole, eccetera, eccetera. C'è sempre quello. Lì rischi sempre di buscare, mi hai capito? Già, devi fare anche rispettare. Cioè, non devi manco fare la prima bocca a certa gente, perché è fatta come te le guardo in faccia, ci vuole carattere in me. È un lavoro che ci vuole, molto carattere, cioè. Il rispetto, col rispetto, se mi rompe le scatole, subito il pugno a faccia, cioè manco a darmi fare, altrimenti te lo tira lui prima. Ma tu, io in discoteca ci ho frequentato un bel di volte, ne so tutte queste cose qua, le so. Io ho visto anche gente sul bordo della pista col bicchiere in mano, guardando la gente che ballava, uno gli è andato sopra, gli ha buttato la roba che stava bevendo addosso e è scappata la riccia per una cazzata del genere, capito? Una riccia allucinante, mega galattica. Questo me lo ricordo, è successo a Nuvi, in una discoteca che c'era. Ho visto, c'era al complesso, ho visto i pali, quelli che mantengono i fari, ce li presenti, volare, non ti riguasso. Cioè, logicamente lì in quei posti lì lo sanno anche chi fa questo mestiere qua, cioè sono anche in due, molte volte sono in tre, in quattro, intervengono tutti, dai, quindi riescono a calmare anche le acque, non è che ci giuro, almeno in due sì. C'è sempre tutto un paese, cosa che ha in le acque, tutto il paese c'era contro gente di Sassari, io conosco anche. Tutto il paese si è messo contro, capito? E molta gente l'ho salvata io perché su te io in macchina gli ho buttato a Sassari, anche se lo bucavano i voci perché si è messo tutto il paese, così lì sono coalizzati, se fa qualche cosa si va altro un paese. Capo, se proprio non ce la fai devi chiamare i carabinieri. Allora si blocca tutto e via. Perché mi lo verrà dentro, chiama carabinieri? Io ho visto qua in 5 secondi ho visto pali, quei pali che mantengono i faritti, c'erano dei pali, cavolo, erano infranzati e l'hanno incutinata la gente, capito? Gente scappando a destra manca, volando roba di tutti i colori, cioè attrezzature del complesso, l'hanno infasciato tutto, sto dicendo, gli hanno sfasciato tutto. Qualche cosa si deve pur fare, non è che poi va, ci vuole, logicamente il tempo ci vuole, però almeno ci tenti, chiami i carabinieri, rinforzi e fai bloccare tutto, cerca di bloccare cioè, il più possibile, poi dopo se non ci si riesce più a chiamare gli autorità. Mi ti assicuro che intervengono quando si tratta di queste cose qua, anche veloce. Ehi, con la banda che attesa dei paesi, ti raccomando, sono dei così distaccamenti con quattro carabinieri. No. Ti sto dicendo che nei paesi è un bell'onfio. Io una volta a Proga me lo ricordo, stavamo ballando con un amico e si sono avvicinati questi due, tra l'altro di Sassari del Monte, perché li conosco pure, e stavano prendendo poi i fondi di questo amico mio come ballava, se lo guardavano e ridevano. Questo amico mio è di chi si prepotenti, non gli vale un ciaffo, ma è di una prepotenza allucinante. E gli ha detto, cosa cacchio c'è da ridere? E quello lì praticamente dai te ci vola. Ha preso come ci tu fuori se l'ha tolto il coltello, se non fosse stato per me, guarda, l'avrei azzicchito, Poi si è messa la gente, deve essere come se la gente di Proaghe, perché era Proaghe che era successo, e sono usciti tutti fuori e cosa, e perché conoscevano a me, anche se no l'avviani, e ci aveva anche ragione, non è che lui non aveva di ragione, però praticamente direi la libra con i sotto. Succede così, sono ambientati, sono, devi stare molto attento, devi stare. molte volte va tutto bene, molte volte va tutto male. Sono gentaglia, io devo ti dico anche una cosa, che io conosco bene il fratello di uno di questi due, quello che si è tolto il coltello esattamente. Conosco il fratello, gliel'ho detto al fratello, l'ho chiamato e gliel'ho detto, ma è troppo vero già. Così, così, così. Cattava che andare a casa piglia quel pavvino, te lo dico io. Ma forse il barò, dopo te lo posso sapere cosa era giù fatto. Mi ha annunciato. Per dire, mi sono messo io in mezzo a fermarlo, perché lo stava pugnando col coltello a Bernardo. Ti sono contento che nella discoteca io ho sempre paura di andare con le donne, perché succedono sempre queste cose. Per dire, si avvicina uno e ti dice vieni a ballare, e la donna magari dice no, non ci vengo, prende la tira, se tu sei fidanzato cosa fai? È normale che ti giri, no? Sono magari per un giorno ti può andare bene, che domani non si sa mai, cioè, e poi provocano, ti si girano le balle, c'è un caratteraccio e succede quello che succede. Purtroppo è così. Ma in questi ambienti vai ad andare tutti tra maschi, e quando si va a Giano vai tra amici così e ti buschi la ragazza di discoteca, così va bene, ma se no hai purughisci da buio, io una volta siamo andati al Susio con Mauro, mezzo amico del Sacro Cuore, siamo andati a ballare, abbiamo conosciuto due ragazze a Sorso, all'UFO Club, si chiamava UFO Club, allora non esiste più questa discoteca, e siamo andati a ballare, abbiamo conosciuto queste due ragazze, queste qui ci stavano tranquillamente, tutta la sera insieme e cose, e ci hanno accerchiato, questa greffa ci ha accerchiato ballando, uno si avvicina e mi ha detto lasciate stare con le due ragazze perché sono mie cugine tutti e due. E mi ha detto no, non è vero, non sono tua cugina per niente, non ti conosco nemmeno, non so che cosa. Poi ci siamo andati all'appuntamento e tutto quanto. Quello lì, uno di questi qua li ha fatto a Mauro, io venite a bere una cosa, dai facciamo pace, stavamo scherzando, questo e quello, dico Mauro non ci andare, Mauro non ci andare, chi dove piglia manco gatto e anda, e la ricutta la trombada, e la ricribada in faccia, e allora così è. Una volta stavamo passando da Sacro Cuore, la ricutta la giussa, tutti in greffa, questi qua erano proprio quei bastardi che c'erano, che hanno picchiato a lui. Gli hanno dato una sussa e dopo come una lettera li hanno sputati anche addosso. No, erano molto in para, traditore che non è altro, questi traditori non li sopporto, veramente, guarda. Io ve la giudico, non va andare, Mauro, non va andare, non va andare, e chi ti è andato? Si è abitato la tromba da faccia, ma forse parò me, una lampada in terra brutta. Che traditore di chi ti fai? E ma chi non si è genebiliato da giù, si è genebiliato da Sacro Cuore, si è inizialmente a diventare caduca, ma che cazzo come abbiamo... Milli, Mauro, mi aghissi, cazzo! Chi si rimane cuto, Milli, con tutti i gatti correndo, i gatti non mi sigli, ti ha levato luce, se come ti ha levato e dopo erano i cuti. A Carrascia, a Nebigliare, tutto qua, l'hanno fatti a beffa. Per dirti cosa succede nelle discoteche, io ho girato tantissimo, sì, sono andato, mi sono divertito, a volte non è successo nulla, però molte volte, più delle volte, un'altra volta siamo andati con mia moglie al Ruscello a ballare, eravamo senza ragazzi e abbiamo deciso di andarcene a ballare. Siamo andati al Ruscello, è entrata questa greffa di Bosa, ha cominciato a rompere le scatole alla gente, questo e quell'altro, l'ho trovato quello che si è girato, solo che questo qui era solo con la ragazza, si è girato, di racconto lui, dopo i lati sono buttati in pari, hanno contagiato, abbiamo preso, abbiamo visto gente volando da una parte all'altra, cagnuti, a destra, ma che noi eravamo nel divano, seduti in quel momento bevendo, ce ne siamo tutti andati. Gappa, gappa, ti ho fatto bene. Ma sono ambientacci, guarda. Sono ambientacci proprio. Deve stare con gli occhi aperti molto. Che provocano. Sono molto traditrici sono. Sono gente molto tradizionale, non ti puoi fidare manco un minuto, perché poi quando sono bevute ci prendono con le merda di cose, eccetera, eccetera. Ma questa gente di Bosa devono essere proprio di razza così. Una volta eravamo ad Alghero con mia moglie, sempre eravamo fidanzati. Siamo andati in quella gelateria che c'è sul lungomare lì, no, c'era una scalinata, stavano facendo musica dal vivo e ci siamo presi dei gelati di quelli in cose, un bicchiere, dai, in coppa, e stavamo mangiando il gelato lì. A un certo punto arrivano questi due, si siedono nell'ombrellone, perché c'erano gli ombrelloni col, diciamo, col tavolino. Si siedono questi due nell'ombrellone vicino a noi, noi stavamo mangiando il gelato tranquilli, però abbiamo sentito tutto, chiama il cameriere e si stavano mettendo a giocare con l'ombrellone, a te fare, lo stavano chiudendo e aprendo, il cameriere si è avvicinato e ha detto scusi, ma non giocate con l'ombrello perché si rompe. L'abbiamo detto, in salvo gli ha detto che nemmeno il padre l'aveva mai detto una cosa del genere. Campinello era fatto un'impinta, gli era fatto fare da ricarico, gelati tutto, guardate, facendo dati, tutto si va via. Cazzo, è successo un casino, abbiamo preso mia moglie, siamo andati a pagare e ce ne siamo andati. Ma c'è più nessuno in questo canale, cosa? Più nessuno in questo canale, Non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno in questo canale. Sì che c'è gente, perché? Sto chiedendo per rilanciare qualcun altro. Tu, adesso non lo so se c'è gente, ma stasera io pensavo parlo con Giuseppe. Qualcuno dice solo ascoltone. E vabbè, ci sono gli ascoltoni, lasciali ascoltare, che se ne frega. Gianno Zalimaro. Dimmi, e chi è questo qua? Va, tu sì. Ho già la voce ti ho riconosciuto. Gava. E vabbè. A volte anche ascoltare fa bene. Sto facendo un po' di questa per tenere la compagnia, non è. Lo sai che ero con anch'io un po' freddo. L'hai conosciuto Giovanni? E anche io andavo a ballare, ma erano bei garroni in chimio, tipo di. Lo potevo vicino la pizzina subito che erano i girosi, anche se non te li buttavi di pizzini, può preso, va. No, io ero lì, un mazzo lì. Gappa. Quindi vedi a tu, anche Giovanni l'ha conosciuto l'UFO. Sono andati come quelli, io. Ma già sono passati a Sacro Cuore poi, se ne compri la giusta, ma qua è da Biazzurro. Su sale della poi da Brigani tutti erano incarnasciati. E tutti altri. Infatti, quando sono in greffa, dopo non era manco vero. Ci avevano rimorchiato queste due ragazze così. Loro non è che le stavamo né costringendo né niente, loro hanno fatto amicizia con noi e cose, tutto quanto, ci siamo scambiati tutto, telefono e tutto. E se questi qui arrivano e dice che erano le cugine, loro hanno detto no, non è vero, non sono miei cugini. Perché dici che sei mio cugino, non ti conosco nemmeno. Evidentemente loro ci stanno prima, magari se ti arrivati fuori hanno visto la chirurgia, capisci? E allora, vabbè, sta roba da ragazzi, da. Comunque già messo di lì, io quando ero ragazzo sono andato un bel di volte in discoteca, andavo sempre venerdì, sabato, anche la domenica un bel di volte. E andavo anche alla Dama di Cuore, la Dama di Cuore è conosciuta la Giovanni. No, la Dama di Cuore no, ma non può essere sì. La Dama di Cuore la Proaghe, non l'hai conosciuta? No, tutti a Bruzzani, la a Usini, da poi carta, di se ce lo ributtiamo i piedi. Ma mi, allora si conosce altri ribassi perché dove andavamo andavamo per accettare a farla a due. Ma io ho avuto la fortuna che c'è anche parecchi di bene o male. A provare che c'avevo l'ambiente, c'avevo proprio là, praticamente c'erano molti compagni di scuola della mia ragazza che abitavano a Provaghe, erano di Provaghe, e ci avevano fatto conoscere gente, ci avevano fatto la greffetta lì, quindi ero di casa in Chile. Però quando andavo nel paese dovevi stare attenti, oh, si sono mai salite, ci si. E una volta sono andato a Carnevale a Usi e non vedi la maschera, no? Avevo il domino e praticamente questa ragazza voleva, stavo parlando con questa ragazza e voleva che io mi togliessi la maschera, dicevo se ti togli la maschera ti do un bacio e lei no, toglitela tu prima. E no, tu l'intera tua, alla fine ci ho messo tutta la serata, come ti sei accavato la macchina, l'ha preso con fuggito, stava meglio con la maschera. Ma chi sei? Allora. Cazzo, stava meglio con la maschera che senza. No, come si è tolta? Non faccio, va. Detto, scusa un attimo che ho visto l'amico, bro. Non ci ho buttata così, ma sono abito. Ma buttare il palo, mi stai andando stagio. Io sono andato tre volte di notte dalla spiaggia a pescare e ho preso quattro ratte, una razza, una bella mormora, insomma tutta roba bellina, dai, non grosse grosse, ma sui 600-700 grammi. E più o meno quella che sto prendendo a fare, dai. Sono andato al presidio militare lì. Parli al presidio militare perché c'è una parte che è rocciosa e l'altra parte che rimane sabbiosa, no? Dalla parte rocciosa ho preso un bel sarago pizzuto che era da un che non impigliavo, chi si lava davvero, eh? Sto andando americani, sto andando solo con gli americani, è l'unica casca che mi mangiano bene. Se non c'è roba piccola, io ho fatto tre nottate e sono andato bene, poi sono andato una nottata e non ho preso nulla. Il periodo, io dico che non verde, ma il cano lo mangia bene. Lo so, stava in escalotto, i parametri stavano in escalotto a canolicchio. Io ma canolicchio intero però, canolicchio con la buccia e tutto, legata a fine elastica. No, vabbè, quella è parametro elastico, non è anche la caglia. Davvero? No, io l'ho provata un paio di volte, no? Forse a canna non va bene. Sì, è consigliata, che sono fatta per lo studio. Io lo sai come la faccio, la rasco piano piano, ne ritolgo quella pellicola che c'è attaccata, piano piano la metto tutta intera a volte e poi rimetto il filo elastico, così la faccio. Paga a patto. Voglia che è vero. Se ne è a voglia. Anche tutto il giorno è giusto. Ore. E per escano il parame. È bello. Che va? Che bello. E c'è un sacco di disturbi, forse su sovramodulazione, non lo so. E ho visto anche l'altro giorno San Viglio, questo amico mio che stava innescando proprio in garage, e te lo vedi, San Viglio dice che sta innescando i parametri a cosa? A cannolicchio. Così stasera dice andiamo, li buttiamo e poi vediamo un po' come va. Cioè a che parte stia andando Giovanni? Non la mano. bene. A pagare. E ma tu per un gommone, è una saggosa. Ti stanno sovramodulando. Prova a ripetere. Adesso, quando lo fai per un bisogno. Ah, beh, certo. Uno si deve arrangiare, una gozzolata di vivano. Aspetta che riprendo un po' che la roba in tutto, non mi guarda. E cosa fai? A privati di vini, Giova, o ai magazzini? No, mi sono distratto un attimo. Adesso già è bello, andare a pescare di brutto. Già lo so che è bello. È bello lì, verso Platamona. Io sono andato a burare la lira, ma no, non ce n'è perlomeno male come la riditore Platamona, Porto Torres, quella zona lì. Sono andato a Sintino, sono andato in Belilu, che è l'argentiera. Io prendo bene a Porto Torres e a Platamona. Come è andato a Platamona in questo periodo? E andavo a Bucciutola a vedere questo periodo, se riesci a entrare dove hanno chiuso, dove andavo io al passetto. E non conviene, no, non conviene andarci, se no, gnogno. Ma di notte chi ti vede, Antu? Di notte non ce n'è capitaneria che gira lì. E andavo io al passetto, tiravo sotto le luci, roba di ombrino e mi davo in chi. Chiappa, già, ma come ne stare, avere la prudenza, come ne fare? Dici, non trovano me. Se ti trovano sono 1.500.000 di 1.500 euro di multa, più se questo dell'attrezzatura e del pescato. Cioè, immagina, se uno anda a piccare, fa pure rimetterci invece che guadagnarci. Vabbè, in ogni caso, molte volte ci rimetti lo stesso, ma ci rimetti l'esca, buh. Ah, Giovanni, ma ci sei, ti faccio sentire quella cosa. Da fatti. A me che mi sta venendo a cagare. Cosa Giova? Il gommone stai vendendo? Yeah. Capito cosa ho detto tu? Puoi ripetermelo, perché sono delle sovramodulazioni quando parla? Che ci sta vendendo il gommone, dai. Io già ho capito. Giova, vai su canale 14 che ciò te lo faccio sentire qualcosa là. Vai su 14. Ma come fa andare a pescare? Volevo già. A Giovanni ti avevo già detto, come fa andare a pescare se si vede il gommone? Ne deve acquistare un altro. Grande. Allora. E rimetti sull'occasione, magari, che ci avvenne. Giovanni. Io ho chiesto se cava il maestrale. Fida di più. Forse si è spostato un attimino, dai. No, stai mescando canoricchi nel bianco. Mi ha detto che fai una preparazione, paghi cicosi, ui. Cappa. E mi già ne stava dicendo una cosa. Ho detto che se cala il vento adesso, pidi di più. Sabato se cala, qua è una bella nottata, si può fare sabato se cala il vento. Io sono andato a calata di vento e così e ho preso bene. Paga così presto. Dovevo andare un po' lontano. Mi piace. Io stavo già iniziando l'altro. Perché ha parlato solo. Che paga. E a quanti anni è? Ah, poca roba, che fai. Già va bene. A Pizzone non sei mai andato, vero? Io sono andato, 33 kg abbiamo preso con l'amico, però col mulinello, elettrico, come non mi piace, lo sai. Siamo andati, partiti da Alghero, andati verso dalla parte di Bosa, a pigliarle, e ci vuole mare calmo, a 150 metri di altezza. Ma tutto scorno mai. Sono andato con quel mio amico lì, poi un'altra volta siamo usciti da Alghero alle 4 e mezza di mattina, e 5 saranno state forse, e c'erano tutti i pescatori con i guzzi che stavano ritornando indietro e ci facevano di mano. E gli ho detto, mica forse ci stanno dicendo ritornando indietro che c'è il mare, ma cosa, sono salutati, non vedi che hanno finito di pescare, ci stanno salutando, fanno sempre così. Vabbè, andiamo in cima dalla riva a cominciare i somari. No, più andiamo lontani e più il mare si calma. Non ti preoccupare, cazzo, c'era una pilottina Sessa, non so se la conosci, con due motori da 80 cavalli. Siamo andati a largo, cavolo, si calma il mare di colpo, si fa nero, nero, nero. Poi viene questa tempesta, Giovanni mio, aggiù brigato. Poi si è andato sotto, bevendo e mangiando, si è cotto, cazzo. Ha giubilato la bilottina, comincia a correre, comincia i motori, a tutta sparatura proprio, cazzo, saltava la barca, si alzava in alto dalle onde, tutta quanta la barca si alzava, poi fa la barra di colpo, pa, pa, ogni schiaffo che dava. Ma io, di mio, cioè io non ero abituato a guidare barche così, ma stavo temendo perché c'erano certe onde che io, mi sono orientato dalla chiesa di Alghero, ho guardato la chiesa, dove era la chiesa per vedere dove era il porto e via, perché lui c'aveva tutta la strumentazione ma non la conoscevo, non ero abituato ad embarca. No, ma se è una benedetta che è rientrato. Ci siamo arrivati, grazie a Dio, non potevo manco portarla in quella barca, facevo manco patente nautica, se mi fermavano i guai. Già lo so, ma cazzo, cosa facevo quello? Si era cotto, era ridendo, sotto, cazzo, come ti un macco. E non è che ne ha parlato con la guardia costiera? Ah, vero. Ehi, e il pesce ti ha controllato? No, veramente no, perché ero... mi sa che più di tanto di pesce non puoi prendere, ci sono belle leggi strane. E che non è finito, perché è a posto di ma adesso è che è una idea informatica. Ah, Dio, che si sente lavoro, che stai pescando per guadagnare qualche cosa per mangiare, cosa cacchio rompo le palle alla gente che non fa male a nessuno. Ma sinceramente già, sono loro quello che ti devo dire perché le fatte per mangiare, non sono tutti per quando, poi quando mi ha chiesto dice che mette il pazzesco, io dice sono ora, mi sento mi ha detto, mi sta aiutando su, però ha detto che è una cosa buona, perché altre gente si fa la pace, invece io vado al mare. Se uno lo fa onestamente le cose non è che ha da niente da dire nessuno. Ma se trovi gente in gamba già ti capisco, ma se trovi chi si dice punta, un amico mio non so che ti puoi per andare a ciappare, è andata la vacca, che butto la multa, allucinante. Ma già, diciamo che la capitaneria è comprensibile, non è che si può di me. Lo sai che è da temere, mi hanno detto così, è da forestale. Da forestale, guarda, so, non è che siamo da discriminare anche loro, stanno lavorando lo stesso, ma dico, sono più fiscali degli altri. A quanto metto gente che va in barca, metto, se ti ferma la forestale c'è un titolo. Cazzo, la genovese, dai. si inventano i lavori così, capito? Ci ha comprato il mercato a tetto, loro vanno, ha detto, la mattina presto e la sera tardi. Quando la gente se ne va, loro prendono il mercato a tetto e cercano lei e il marito, tutti e due. Il presidio militare poco prima del bar che c'è della torretta. E c'è qualche disturbo. messo col boccone, e sono arrivato dopo sud'ora e non c'avevo soldi per comprarmi le scatole, la verità, mi sono fatto dare un pugno di bocconi. Un pugno di bocconi nella pescheria che c'è nel supermercato dove lavoro. Ha dato un pugno di bocconi, ho usato quelli, ma tu di boccone no, che non si, finisce che dà, sono lanciato due canne lontano. E io l'avevo messo a pelo di banchina. Oh, non è manco buccia, era vivo. Il cucchiaino, prima è passato, una tanuta bella mia, un chilo e passa pesato. E non vi crediamo nelle loro voci, dice, ma se la tanuta che c'è un pesce di alto fondale, come ti cacchia è fatta a bigliare le nocca? Bocconi! Le tanute! Ma io avevo messo bocconi a chi non va a vedere a Bappidamini, me l'hai fatto regalare un pugno dalla pescheria. Ma ti dico che la sera sono rimasti tutti a bocca aperta, prima ho lanciato lontano e mi si è attaccato con un sugarello, l'altro lanciato, ne manco un bus, andavo io segnalino e partia, detto, ma diciamo, o c'è corrente sotto, ho detto, alza il sugarello attaccato. Chiamano sugherilli, sono tipo paraviti, roba del genere, sono dei pesci predatori, pesce azzurro, eh? No, è un pesce azzurro questo qua, no, la boga è tipo lo zarretto. La sorella, mi non mi veniva. Ma è la sorella, mi sto sbagliato io. Si è lanciato, deve essere, come ha visto la scatta venendo giù, boom, si tira di nato, manco lanciata via. Se chi si è arrivata a bocca a se qua campinazzi non penso si è giunta la busta d'oro. E te, il busta d'oro si deve imparare a risassare a picchiare. E Maria galleggiata. Eppure io qua, la pesca galleggiante non mi piace, non mi appassiona molto, mi piace di più pescare a fondo. Dai, io le non sono pratico di pesca a galleggiante, ma potrei sempre fare una cultura come me l'ho fatta per quella a fondo. Adesso poi che c'è internet, vado a vedermi anche i filmati, cose di pesca, bip. Yeah. Ma no, interessante, no, la verità mia, anche lui lo sa che io non me ne intendo, però mi piace lo stesso. Ciao Giova, ci sentiamo, va. Non ti narro nulla. Ci sentiamo, ciao ciao, avanti. Ma dai, ce la risentiamo alle prossimine, dai. Grazie della chiacchierata e del QSO. Io ti sentivo anche tu, adesso poi ho capito che era un FM. Mi sa la campagna di gira. Se me che compriva Giovanni qua a me. Lo so, ma la socia arriva in fondo, chissà. Vabbè. E quando ci mando i baci, chi sei ridato del grande papita, neanche tu? L'hai trovato in FM? In FM era. E cos'era? Tedesco? No, qua non ce la fa a coprirlo. Qua copre a tutti. Già lo sai. Deve accettare un tedesco, deve accettare. Ma sa fare il caffolà. Ma sa devi fare un telefono che lo sai che si incazzano, non ti con voi, ma che ora si incazzano bene. Macaroni, ecco. Tali macaroni. Gabba. Un po' feo, sì, un po' carezzo strano, insomma. Intanto tutti gli anni, come se Italia X è animato X. E secondo me chi ce l'ha meritato, cioè con la squadra lì spagnola, ce l'ha meritato tutto il mondiale. Hanno vinto, hanno giocato bene. La cosa migliore. È un po' per una cavalla là, si tanto, ma interessante non abbiano vinto loro, mi avrebbe dato troppo fastidio se vi diceva loro. Diciamo che se l'ha vinto una squadra che ha meritato tutto. Perché solo il fatto che abbiamo fatto questa canzone mi ha rotto un bel ricatto. Ha telefonato un emigrato italiano, ha telefonato a 105 e l'ha detto, capito? Ha detto, sentite questa canzone che hanno fatto i tedeschi contro gli italiani, la stanno mandando in tutte le TV e tutte le radio private. Che sono caroni, è tanto un X pure loro. Allora la X se ne è fatta pure, erano corti ma si sono guardate. Si trova sempre quello più forte di te, no? Non pensare mai che sei più forte, che sei qua. Trovi sempre quello più forte di te. È una squadra che non le si può dire niente, hanno fatto il loro gioco, hanno fatto partite da come meritavano, meglio una squadra europea che una squadra di fuori dall'Europa. Vicita se le ha fatte, non è che indietro di qualcuno. Quattro mondiali abbiamo vinto, non so se avendo l'idea, quindi non è che si possa neanche commentare dopo. Poi c'è sia il Brasile che l'Italia hanno vinto quattro mondiali. E il brasiliano come mai, ragazzi, quest'anno? Sono forti come squadra. Brasile è la forte, ma è strano che non abbia vinto, ma che l'Italia era. Chiappa, a chi l'hanno fatto un capo a cacco, fai che tu non hai vinto. i grandi nomi, no? Secondo me non contano niente, secondo me conta giocare per fare, l'importante è che si vincono giocando, ma giocando sul serio, non sto lasciando niente, i grandi nomi non contano secondo me. Ma tu dico una cosa, se tu metteresti giocatori nella nazionale di quelli vecchi che non ci sono più, farebbero meglio dei giocatori che c'erano questa volta. Volati dici, però bisogna trovare nuovi paletti. Noi abbiamo sbagliato e l'abbiamo pagata. Ma comunque, va bene. Il gioco è quello, gioco. Ma tu non hai conosciuto Albertosi, Gigi Riva, tutti quei giocatori lì? Se quelli erano cannoni, Guarda, l'unico che mi è piaciuto nella nazionale che l'hanno fatto giocare in quella sola partita, cioè, che secondo me avrebbe fatto tantissimo, quel Pagliarella che ha fatto dei gol a micidiale, solo che il giocatore non è stato scoperto. Molti che vanno in gioco a giocare a nazionale si mangiano la panchina a molti e non li fanno fare. Perché poi magari se è uno bravo non basta, perché quello lì fa la parte sua, ma dovrebbe avere anche gli altri giocatori che ti passano la palla e facciano il gioco. Se poi sei solo che giochi, allora sono contro tutti, è brutto. Capace, ci sono state fatte delle sbaglie, cioè a posto di mettersi, dice Andrea Pirlo che non era in forma, doveva metterci a Corso che era in forma al 100%, invece lui non l'ha convocato, ha lasciato Guido che ne stava uscendo da un infortunio e non era al 100%, ci sono stati tanti sbagli, sono stati, però gli sbagli si pagano, dai, pazienza. Questo Corso sarà? Allora, gioca al Cagliari, ma c'è una potenza allucinante. Purtroppo non si poteva chiamare né a Parotelli né a Cassano perché c'erano motivi che Parotelli ci ha caratterato. Per quello che non l'hanno convocato. Vidu di partire la figliola, cioè non mi ricordo una parente di Casino, guarda. Cos'è così? Tu questa non lo capisco. Infatti è una parente di Cassano, cioè, mi sembra, non mi ricordo se era la figlia, ma non me la pensava. Qui ci sono le repicche. Convocato per quello, seguito Mario Barotelli, non l'ha chiamato perché c'è un caratteraccio. È proprio per quello, se no c'è anche un giocatore lì, magari si era potuto fare qualcosa, se era nipote si era potuto fare qualcosa. Vabbè, da come è andata, tanto certo quest'anno non ce l'ha più quell'entusiasmo di vedere le partite sino alla fine, no? Allora è Nieto, Mario Parolese. Cos'è Nieto? Qua. Che senso? Di colore. Vero. Ah, non ho mai sentito parlare. Di colore. So che c'è un caratteraccio. No, io non ne seguo il calcio, non è che ne seguo più di tanto. Ma quando gioca l'Italia vedo che gioca bene, faccio un tifo la verità. Ogni tanto lo sguardo lo voda. Magari. già è molto bravo giocando. Sono di Marazzurri, è quello lì che lo frega. Sa farà subito così. No, sin capo, mi ha capito, si è accavato la maglietta e la piglietta se n'è andato, un macco di visto per voi. Ah, l'ho visto quel pezzo. Chi c'è Mario Barattello? Ma il cognome sa, il cognome italiano. Mario si chiama di nome. Mario. Può essere qualche uno che si è stato adottato. Sicuramente. Che prendere nome e cognome italiano. Oh, rubato, magari rubato se si è ingroppato qualche nietta. C'è partito il coso l'alimentatore, stasera Liliana ne ha comprato un altro e trapiantarlo e tutto, poi mi ha chiesto se lo dava lì che doveva piantare, non so che cosa, ho un bisù, mamma mia, piantare, dare da mangiare alle mucche, e ti ha detto che non ti compagni la fattoria per prima, non manco venire a aprire. Ma questo fa un filo, non so se lo conosci questo gioco. È tipo il Tamagotchi, come la prima, se non gli dava a mangiare moriva, la scimmia, così è questo qua. Se devi andare a mangiare a quell'ora, ogni 10 ore li devi arare, devi piantare, devi fare, seminare. Calma. Quindi, perché non ti chiedi muore? Beh, quel di tutto. Però non ho mai capito se è un gioco che finisce o se continua sempre. Sarà il campo, proprio. Perché non la sopporto più sempre con questo gioco. Oh. Anche quando sto io al computer, Gianni, devo seminare, dove il computer, se l'ho preso tutto. Oh, e devi toccare a mulla. Campo. Andare a mangiare più del solito, almeno muore. Non puoi. Dai, gli orari. Ogni 10 ore devi fare questo, per dire le mucche magari devi andare a mangiare ogni 10 ore, poi ci sono i cani, c'è tutti gli animali della fattoria, capito? Scappa, scambia del mangiare. Mongo gli diritti e si mangia la roba con gli diritti e si crema. Ma poverine. E dopo il fatto che a volte lei non può darlo, magari perché si fa la spesa e cosa, allora lo chiede a un'amica, l'amica ci pensa lì all'autorizzazione per entrare nella sua fattoria e l'aiuta, capito? Gaffa, un gioco difficile se cercata. Di giochi non fa solo quello, non ne fa un bel, però questo della fattoria è un bel impegnativo. Lo so, andate a mangiare per il tempo che ho, andate già a voce. Lo so, meglio un gusto che c'è Tomalani, anzi se le piace cosa avete. E non è solo lì, no, vedo il tuo gatto in un modo, fate che su Yugo. Sto dicendo quello, ha giusto, se ha fatto per me, ha fatto molte, perché io non ho tempo di... Cioè no, non ci sto sempre, capito? Oh, ma io non ho nemmeno la pazienza, tu, non ce l'avrei avuta quella pazienza, già me la fa perdere lì, quando la vedo sempre piantando, facendo, ma cosa, mille fragoline stanno crescendo, santo mamma. Ma tanto se crescono non è un maniaco, se ti riva. Secondo me farlo davvero non l'avrebbe fatto. Davvero è un bel impegnativo, mi ha toccato, a parte gli scherzi, quel lavoro lì lo faceva mio cognato, c'era l'allevamento di bestiame, e lui non conosceva le domeniche, le sabati, non conosceva Natale, non conosceva la Pasqua, perché le bestie devono essere acquiste tutti i giorni. Insomma, un sacrificio anche quello. Dopo a Natale, il 24, lo stavamo aspettando a casa di mamma, me lo ricorderò sempre. Il 24 di dicembre, perché dovevamo festeggiare il Natale tutti insieme, no? Cazzo, non arrivava più, non arrivava più. E allora io sono sceso, l'abbiamo telefonato e non rispondeva, sono sceso a Porto Torres e lui a casa sua, il padre mi ha detto che sono scappate delle mucche perché ho sentito degli spari, sai come sono in questo video che sparano tutti a dicembre, ecco, hanno sparato pensando che cosa, hanno fatto scappare tutte le bestie e lui era appeso alle bestie, più si avvicinava e più si allontanavano in montagna lì, no, nella Nurra. È stato 3 giorni appresso alle bestie, lo sai? Sì, sì, oh mamma mia, qui a Trano, vero? Ma non ce ne metto ancora il recinto. Sì che c'erano, loro come si spaventano, tu guarda, una forza paurosa, spaccano tutto e scappano. Come sparano, purtroppo. I loro se non danno spari si sono spaventati. E un'altra volta gli hanno rubato, siccome lui a dormire andava a casa sua, a Paolo Torres, la campagna non c'era nessuno, no? La lasciava sola la campagna. Gli hanno rubato il trattore grande, che aveva delle ruote che erano più alte di me, col carrello, hanno attaccato il carrello e ci hanno rubato tutti i fitelli che doveva portare a macellare il giorno dopo, mi pare. Poi ha ritrovato il trattore, senza la batteria, tutte le attrezzature che ci aveva, il carrello gli hanno rubato, i vitelli due li sono saltati, deve essere come li stavano rubando, li sono scappati e li ha trovati in un altro terreno che lui aveva per pascolare le bestie, se ne sono andati lì. Però erano tipo sotto brado, no? Se ti avvicinavi scappavano, quindi non facevano manco avvicinarti, hanno dovuto lasciare calmare prima e poi prendere. Gli altri tre li hanno tutti rubati, del valore di 1.500-2.000 euro l'uno. Casino questo, fare quel lavoro lì, è un macello, no? Sacrificato, lui va a lasciare perdere. E infatti ha mollato, si è venduto tutto il bestiame e poi adesso vende case, fa, diciamo, c'è un'agenzia. Sì, ha fatto bene, no, se da due gattini pure nella roba, non se ne può più, no? Mi hanno rubato un sacco di soldi, di valore, dai, diciamo. Tocca stare sempre arrabbiato, sempre con le scatole girate, si è potuto fare meglio, ha fatto bene. Vabbè, alla fine non ce l'ha fatta più, si è venuto tutto, poi è uscito con l'affare della mucca pazza e non stavano più vendendo bestie perché il carne non ne mangiava più nessuno perché avevano paura di questa storia della mucca pazza. Benissimo, guarda, oh. Quando non se ne può più, non se ne può più. E beh, buon buono. Buonasera. Sei più forte di Piru. Sei anche a te, buon buono. Saluto a tutti, ciao Gianni. Poi buon buono. E allora? Allora, come se va? Beh, va bene. E il vetro, come è sotto là? Il vetro? Senti. No, stavo sbagliando. Mi sembra papà, non è il vetro. Non uso il vetro io vado con noi in casa, si fa vedere. Ho sbagliato io, era un'altra persona. Non so mettere io qua. Tanto. Dimmi già. Qui mi segni. Già lo so. Dimmi pure io fra un poco chiudo. E se non lo sa, ma io quando sto per addormentare mi sparo un bel cazzato. L'imputato ti svuota un po' a furio. Non posso. Raccelle. Dimmi. Kappa. Dimmi. Mi sa che questa sera ho parlato di troppo. Infatti dai, adesso chiudo perché... pure io sono stanco, domani è un altro giorno, devo fare metà, ma la devo fare. Ciao Gianni, dai, ti saluto, c'è anche a te buon buono, fammi sentire. E salutoni a tutti gli ascoltoni, ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao, ci sentiamo, Anto, buonanotte, avanti buon buono. Ciao Anto, buona Pasqua, ci sentiamo a Capodanno, e lì c'è un nuovo. Ciao, all'aleare, dove dico io? All'aleare. Ciao, davanti, Pompo, ma fra poco me ne vado anch'io, mi sta avendo la biocco. Ci picchia. Io non mi dici sì, ma perché sono andato adesso? E lo fuori. Sono giornatacce per noi, tu non lo sai, ma questo periodo, il turismo, questo e quell'altro, la foriamo un bel. Oggi c'è la notte bianca, tutti lavorano stanotte. Non ti sentono, c'è questo qui da fame che ti copre totalmente. Ho detto che c'è la notte bianca, oggi lavorano tutti. Ma la notte bianca c'è oggi. E... bianco. Se guardiamo è bianco sì, ma penso proprio di sì. E gente ce ne è. Io non so, mica sono al centro storico io. Io abito su ormai. Al centro storico c'era la gente, non è che c'era molta morta, però c'era. Mortato al bar, si buffano. A quell'ora è arrivato al circolo che sono già alle 11 e mezzo, sono qua che... e queste sono già fusi, sono tutti quanti muratori. Bene, vabbè, va bene. Ti saluto perché non ce la faccio più, sono mezzo drumito. Buonanotte, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime.